Direi che sono le 7 del mattino di giovedì 29 di novembre. Questa è Rock FM. Complimenti per la scelta. 24 ore su 24, solo rock and roll. Da qualche tempo serviamo una nuova colazione alle prime ore dell'alba. Quella che serviamo tra le 7 e le 9 del mattino si chiama pane, burro e rock and roll. C'è l'Ariele, eccolo qui, ciao. C'è Spadino in regia, eccolo là, ciao. E tra qualche minuto dovrebbe arrivare anche Roberto Fricantoni. Ma soprattutto ci sono migliaia e migliaia di radioascoltatori con un grandissimo senso dell'umorismo sparsi là fuori. Un buongiorno anche a voi, amici ed amiche. Io capisco che siete dei sottili umoristi dai messaggi. Pane, burro e rock and roll. E ogni giorno arrivano copiosi. La tua colazione rock. Al nostro numero di SMS. Pane, burro e rock and roll. Inizio grintoso stamattina, eh sì. Lo faccio per non svenire. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene e fa bene. Sono dei messaggi inquietanti quest'oggi. Già inizio trasmissione, il che non promette niente bene. Se iniziate così proprio alle 7 un minuto, entro le 9 va a finire decisamente male. Ma siamo pronti al peggio, siamo pronti a tutto qua a pane, burro e rock and roll. Non posso però non citare l'SMS di apertura, il primo arrivato quest'oggi, targato Puggio Milano, un fedelissimo, un amico che si scrive spesso e volentieri, che non manca di segnalarci una notizia che avremmo sicuramente dato e che daremo più volte nel corso della trasmissione. Titolo del Corriere della Sera di questa mattina: creato il super topo, isolato un gene nella prostata, non si ammala di cancro. L'amico commenta: non mi resta che ringraziare Rogna e Frigo, martiri per noi. Buona giornata, grazie Puggio per la segnalazione. Ed eh sì, con questa notizia di un super topo che andiamo a iniziare questa nuova puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. la pioggia dei Cult, Rain, in una Milano ancora rinchiusa nelle tenebre, ma che non promette pioggia, sempre per dare una spruzzatina di meteorologia anche in questo giovedì, puntata 140. Prima non avevo detto il numero perché non avevo la scaletta, eccola qua. No, resto basito da un SMS. Quest'oggi tra l'altro torneremo a parlare, o oggi o domani, con il nostro inviato Andrea 147, l'amico che studia la concorrenza. È un messaggio che riguarda la concorrenza. Mi scrivono: ti sei venduto l'anima a Virgin Radio, vergognati. No, perché di cosa mi devo vergognare, amico mio? Dimmi un po'. È sempre per quella storia di uno spot con la mia voce. Ai. È duro accettare un serio professionista. Vi taniamo tutti, amici. Mi fa strano che non avete paura di confessare di ascoltare la concorrenza. Non dovreste. Voi dovreste ascoltare solo Rock FM. Queste cose non dovreste sentirle. Se no state tradendo Rock FM. Attenzione. Molta attenzione. Saluto anche il patentato 110. C'è troppa ironia nel tuo SMS, non credo che l'ascolto sia pronto, caro Marco. Ma ti ringrazio, a me ha fatto ridere. Vi ricordo il numero per contattarci se lo volete: 335-100-7777. Due ore di follia, due ore nelle quali può accadere di tutto, non ci spaventa quasi nulla. Dovrebbe arrivare anche Frick, il treno è in orario, deve essere nello spazio che c'è tra Rock FM e la stazione centrale, che in realtà non è nemmeno tantissimo. La redazione ha già preparato l'almanacco del 29 novembre, l'avete fatto, e allora tra pochissimi istanti qui scopriamo cosa è accaduto il 29 di novembre. Devo fare auguri di buon compleanno al patentato 129, Ale, 13 anni! Che ficata! Suona la chitarra ed è un vero rocker. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke blast stained bright color, image going down, down, down, down. Soap sud green light bulb. Ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke blast stained bright color, image going down, down. Nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Quest'oggi non mi frega, mio caro Roberto. Donne, è arrivato Friccantoni. L'arrotino, l'ombrellaio. Buongiorno a tutti, radioascoltatori e radioascoltatrici. Benvenuti all'almanacco. Lei è pronto oggi, bello pimpante. Un giovedì 29 novembre da vivere insieme. Siamo quasi alla fine del mese e noi teniamo duro. 1781, la nave negriera Zong getta in mare il suo carico, tra virgolette, allo scopo di chiedere un risarcimento all'assicurazione. Che bella notizia per iniziare. Colpo di scena. Quanti ne avranno buttati in mare? È un po' inqualificabile, un numero inqualificabile a carico di questa Zong. Vorrei conoscere il capitano per tirargli un pugno in faccia. I miei più risentiti complimenti, se mi fa passare l'ossimero. E poi noto che già le assicurazioni ci perseguitavano fin dal 1781. Le assicurazioni già facevano il loro bravo interesse. Voltiamo pagina, la prego. 1929, l'ammiraglio statunitense Richard Byrd diventa la prima persona a sorvolare il Polo Nord. Chiedo scusa, era, mi dicono dalla regia, era sud. Scusate, è vero. Era sud, ma possiamo forse omologare anche il nord. L'importante è che sorvolasse un polo. Ma chiudiamo con una notizia del 1975. Ci tengo a dirlo perché sono, come lei sa, informatissimo e un luminare in materia informatica. Esatto. Il nome, sto scherzando naturalmente, Microsoft. Che infatti è Microsoft, da microcomputer. Computer software, sì. Viene usato da Bill Gates, sì, in una lettera a Paul Allen per la prima volta. Ma sì, guarda, è stato che notizia usato curiosa. Per la prima volta il nome Microsoft che ha inventato lui. L'uomo più ricco del mondo, sì. Bill Gates. Lei lo invidia un po'? Un po'. Un filo. Anch'io, sa. Per i soldi, più che altro. Facciamogli una telefonata, vediamo. Abbiamo un numero redazione? Sì, vai, chiamiamolo. Si chiama Bill. Pronto, Bill? Bill, mi senti? Mr. Gates? Pronto? E me, che c'è? Now I'm there. I'm just. Baby, I was when you took my hand, and the light of the night was bright. L'intramontabile fascino dei Queen e ovviamente di Freddie Mercury. 7:17 minuti primi, questa bellissima Now I'm Here, ora sono qui, come d'altra parte siamo qua anche noi, Mister Trombetta in primis. Allora, c'era un altro saluto che dovevo fare prima di passare alla telefonata. Non lo becco più, perdonami. Intanto, gioco di parole, niente male. State scrivendo reduci dal concerto del boss Springsteen ieri sera. Se qualcuno vuole intervenire, sarei molto curioso di sapere com'è andata. Mentre do il benvenuto a Carlo Tabaccaio. Ciao caro. Ciao. Ricordiamo, siamo sempre alla ricerca del lambo perfetto, due volte alla settimana, i numeri rock. Io Carlo però devo iniziare ringraziandoti questa mattina. Peccato che non posso dire che stiamo preparando un calendario. Va bene. Che non posso dire che avevamo bisogno di una piscina per fare una fotografia e Carlo abbiamo scoperto che oltre al tabaccaio fa anche l'istruttore di nuoto. Sì, queste doppie vite che hanno sti rocker. Come Clark Kent e Superman, una cosa veramente incredibile. Quindi non posso dire che dovevamo fare la copertina di Nevermind e Nirvana e come due deficienti, io e il buon Angelo, che saluto, che credo sia stato il primo rastamanno a entrare in quella piscina, o è una mia impressione? No, è stato lui. Tutti quanti ci chiedevamo come facesse entrare con quei capelli così lunghi. Va bene, occupiamoci dei numeri però, non farmi dire altro. Va bene. Ricordiamo, dai. prima di tutto ricordiamo che la signora Carla martedì li ha beccati. Sì, lei ha beccato un ambo su dei numeri che avevamo già proposto in precedenza e giustamente lei, che continua a ripetere per almeno due o tre volte, esatto, ha beccato inesorabilmente un bel ambo sulla ruota di Firenze oltretutto. Sono radioascoltatori che ipotizzano che la signora Carla abbia vinto talmente tanto che potrebbe scappare all'estero. Ce lo confermi? No. Non riesci neanche a fare sì, ma almeno no, due no, volte, okay. Guarda. Non diciamo però, ok, quindi non ci preoccupa. No, noi preoccupava che scappasse, capito? Alle Mauritius. No, tranquillo, scapperà mai, il marito la tiene legata ben stretta. Esatto, tienicela qua a Milano. Sì, dai, sì. La terna di quest'oggi con un meccanismo tutto tuo, vai, spiegacelo. Sì, praticamente la settimana scorsa è comparso su un giornalino di quelli gratuiti. Un giornalino già mi piace. Esatto, un riferimento da Mike Jagger, quale praticamente è stato convertito alla cabala dalla moglie. Sì. La cabala però risulterebbe essere una sorta di setta religiosa ebraico-filosofica. Setta non mi piace tantissimo. Sì, è molto ebraico. Però sta cabala qui ha messo un'altra strana, no? Insomma, per noi la cabala è solo una, che è quella napoletana, insomma. Che ci sarà contento il nostro Gianfranco, l'ascolto da Napoli. Sì. Per noi la cabala è la cabala napoletana. Quindi, visto che tra l'altro Mick Jagger era stato citato anche nella puntata di ieri. Esatto, per via di esalazioni gassose. Esatto. Quindi praticamente ci giochiamo Mick Jagger, che è il 29. Che è Michele. Esatto, Michele, esattamente. Okay. Il Natale, che quella famosa setta ebraica non vuole celebrare, sì, ed è il 25 di conseguenza. Sì. E le donne che hanno intrapreso questa sua conversione, quindi in questo caso Jerry Holt e la moglie, sì, è il 38, perciò. Le donne che pregano, ma esatto, fa. Quindi che ogni tanto si convertono a queste sorte di esplorazioni appunto mediatiche. Sì. Guarda, tu buttati sul religioso quando vuoi, Carlo, tranquillo. Sì, non c'è okay. problema, noi accogliamo tutto a braccia aperte. Quindi il terno, torniamo al terno, Sì, il terno. Mannaggia, quindi è 29, 25, 38. Ricordiamo che sono numeri rock, li dovete giocare una volta sola e non usciranno. Vedete, esatto, voi come prendere la situazione. Sì. Ciao Carlo. Ciao, non a settimana prossima, che siamo in crema settimana prossima. Quella dopo ancora è parte il Natale, è un casino, ne parleremo. Ciao Carlo. Certo. Va bene, ciao.